Effetto Mondo. Now is the time to reaffirm our belief in democracy and to give states the time they need to count every ballot so that the will of the American people is heard. Ecco, questo poteva essere una lezione di inglese, è comprensibile, inglese americano, ho capito quasi tutto anche io. È la voce di Bernie Sanders, che sappiamo è diciamo il più a sinistra dei democratici, e sappiamo che era pronto, insomma, ha partecipato alle primarie, ma poi si è ritirato e ha combattuto per Biden, e nella notte delle elezioni ha dato questo messaggio. Lui fa molte dirette Facebook, e non, in realtà non sono dirette, mette sul suo sito dei videomessaggi, e in questo messaggio diceva: questo è il momento di lasciare a ogni stato il tempo per fare i conteggi, ed è il momento in cui il will, cioè la volontà del popolo americano deve veramente essere documentata. Un appello che, senza fare alcun riferimento a quello che stava succedendo, che però insomma sembra quasi profetico, perché è avvenuto quando ancora non c'era stato né la prima apparizione di Donald Trump né poi la conferenza stampa di Joe Biden. Allora, so che hai preparato qualcos'altro, sempre sì, da farci sentire intanto. Sì, se vuoi, intanto comunque naturalmente le prime pagine di tutti i giornali sono tutte focalizzate su questo. Direi che i temi interessanti sono quello dei referendum che si sono tenuti, per esempio in California ce ne sono stati parecchi su Uber e su altri protagonisti della gig economy, e si va verso una maggiore tutela per queste categorie, quindi questo mi sembra importante. Poi c'è il tema dei 38 diversi tipi di Latinos, di voti Latinos, cioè di voti di persone che hanno origine, sono di prima o di seconda generazione, da paesi del Centro America o dell'America del Sud. E molto interessante, perché Trump ne ha avuti più che nella scorsa tornata, e questo è un elettorato, l'abbiamo sottolineato anche ieri, che tutti i giornali dicono: attenzione democratici, è un elettorato che dovete curare meglio. Poi naturalmente si sprecano i giochi di parole, make America wait again anziché make America great again. Un'altra espressione molto usata è knife edge, che è l'equivalente del nostro sul filo del rasoio. Ovviamente nessun giornale ha potuto dare dei risultati definitivi. Interessante anche il fatto che per ingaggiare tutte queste battaglie legali Donald Trump avrà bisogno di molti soldi, e siccome comunque nell'ultimo mese aveva raccolto molto meno del rivale democratico, ci si chiede dove li prenderà, se dal suo patrimonio personale o se li chiederà comunque alle casse del Partito Repubblicano, perché sono, lo sappiamo, carissimi queste battaglie legali. Però se vuoi sentiamo invece la voce di Bruce Springsteen, che è stato preso in giro in passato da Donald Trump, in realtà con una pacatezza incredibile dice semplicemente: noi dobbiamo recuperare appunto il nostro autentico spirito americano. Sentiamo il boss. He's such a flagrant toxic narcissist that he wants to take down the entire democratic system with him if he goes. Dice se questo era appunto ancora quando, anzi ancora oggi non lo sappiamo, cioè dice se ne va, se è talmente un narcisista che non gli importa, cioè venga giù il tempio con me, cioè mi voglio portare, mi distruggo tutto e dopo di me il diluvio, ecco. Questo è un po', lo dice, l'avete sentito anche, non dico sorridendo, però rendendosi conto di usare dei termini, insomma, toxic narcissist, un narcisista tossico, però sicuramente insomma in questi ultimi due interventi di Trump persino esponenti repubblicani, questo lo sottolineano molto i giornali, persino Chris Christie, ex governatore del New Jersey, che lo aveva preparato per i dibattiti presidenziali, si è preso il Covid, è finito in terapia intensiva, è guarito, ha chiesto al presidente di usare più cautela e di raccomandare di usare le mascherine, però era un fedelissimo di Trump, e lo stesso con altri importanti repubblicani. Ieri hanno tutti detto questo discorso, questo dire: siccome i conteggi non sono più a mio favore come erano nelle prime ore, adesso scateniamo gli avvocati. C'è stata una dichiarazione di Trump, te lo chiedo, per prendere le distanze, perché uno può dire: non sono d'accordo, ricorrerò alla corte, ne ha tutto il diritto, ma poi quando ci sono sostenitori armati che vanno a protestare, come è successo stamattina in Arizona, Lì devi dire fermi tutti. C'è una dichiarazione di Trump su questo? Assolutamente no, per ora no. Ma se questo è grave, perché sì, questo è molto importante, perché c'è un passaggio, no? Finché si fanno dichiarazioni, si fa politica, si fanno ricorsi, battaglie legali, puoi fare tutto quello che ti pare, ma se c'è gente armata in giro a nome tuo, devi dirgli fermatevi. Purtroppo questo era un po', insomma, è diciamo coerente con le lacunose risposte che Donald Trump dava quando gli si chiedeva di prendere posizione sui gruppi dei suprematisti bianchi. Vi ricorderete quel Proud Boys stand by, state lì fermi, Proud Boys, che è uno dei principali gruppi di suprematisti bianchi. Vi ricorderete anche quando lo incalzavano dicendo: ma se non ci sarà un risultato chiaro, lei garantisce una transizione pacifica? E lui ha sempre detto: vedremo, dipende dal risultato. Quindi in questo è sicuramente molto coerente, continua a non condannare queste forme di non accettazione di un verdetto dalle urne. Allora Giulia, se vuoi sentiamo anche la voce di Biden. Vai. Perché ha fatto un discorso bellissimo in cui non ha detto abbiamo vinto, ha detto le cose si stanno mettendo bene, ma ha ripetuto, tra l'altro un discorso non tanto lungo, ha ripetuto con Kamala Harris al suo fianco: io sarò il presidente di tutti gli americani. Finito questa lunga e difficile e dolorosa campagna elettorale, noi ce la buttiamo alle spalle e io sarò il presidente di tutti gli americani, quasi soprattutto di chi non mi ha votato, se vuoi lo sentiamo. Sì. To listen to one another, to hear each other again, and respect and care for one another. Dice to unite, to heal, to come together as a nation. Dice proprio: dobbiamo reimparare ad ascoltarci e dobbiamo guarire le nostre ferite come persone che non si riescono più a parlare, ad ascoltare, e come nazione. Con un tono davvero che ovviamente è molto diverso da quello che sta usando Donald Trump. Io naturalmente rispetto chiunque, anche sperando che si sia sufficientemente documentato su quello che ha detto e fatto Donald Trump in questi anni, rispetto chiunque anche qui da noi sostenga Donald Trump per le ragioni più svariate, però vi invito ancora una volta ad ascoltare i toni e le parole, quindi il tono ma anche la sostanza di quello che ha detto Trump e di quello che ha detto Biden in queste ultime ore. Scrivono gli ascoltatori: ma se vi rubano i voti cosa dovete fare? Andare a brindare? No, andare a brindare no, fai ricorso, fai tutto quello che ti pare, tutto quello che è consentito dalla democrazia. No, attenzione, andare con i fucili no, perché questo si chiama fascismo, si chiama non accettare la volontà della maggioranza. Ma poi fai ricorsi, ma non vai in giro con le armi. Guarda, scusami, ascoltatori, bloccati tutti. Hai ragione, soprattutto sul Wisconsin, che è stata un po' la sorpresa, perché, ve lo spiego molto, non c'è alcuna frode, credetemi, ascoltatori. No, ma anche se ci fosse una frode, non la puoi smascherare con le armi, ma Giulia. Siccome, non la no, puoi certo, smascherare certo, con le armi. No, perfettamente d'accordo, però siccome il Wisconsin è veramente lo stato del contendere, perché sembrava di Trump nelle prime ore e poi è passato a Biden, perché? Perché tutti i voti arrivati per posta non sono stati scrutinati come avviene in altri stati in tanti seggi. La legge dello stato del Wisconsin prevedeva che venissero tutti portati nello stesso seggio e lì scrutinati e poi a scrutinio terminato annunciato. Siccome sappiamo che i voti per posta sono quasi tutti democratici, quando è stato dato questo numero era un numero ingente, non parcellizzato come sarebbe successo se fosse arrivato da diversi seggi, e quindi c'è stato un balzo e un flip dello stato, ma non c'è alcun broglio, vi assicuro. L'FBI sta sgolandosi da settimane dicendo che non esistono le prove di brogli. Insomma, io ripeto, anche se ci fossero dei brogli, sono le autorità, c'è la commissione preposta a verificare la correttezza del voto, potranno fare dei riconteggi. L'importante è che se ne parli su questi binari, non su altri binari. Abbiamo ancora 30 secondi, però. Guarda, per su questo proprio ti cito Le Figaro, che mette l'editoriale, si chiama Silenzio, stiamo contando, per dire appunto che prima di lanciare usare queste parole tremende, brogli, che possono avere gli effetti più negativi, lasciate contare in questa strana elezione. Ricordiamo tra l'altro il numero più alto di persone mai andate ai seggi da quando si vota negli Stati Uniti, oltre 150 milioni. Quindi insomma è ovvio che ci sono dei problemi che nelle scorse tornate non c'erano. Va bene, chiudiamo, è tutto per oggi. Grazie Giulia, ci risentiamo naturalmente domani con la puntata di oggi, con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14. Ciao, buona giornata.